sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Radio Alma, I colori dell'anima. Stasera Rosanna mi ha fatto aprire la puntata. Ti ho fatto uno scherzetto. Sì, sì, bello scherzetto che mi hai fatto. Buonasera Anna Maria. Ciao Rosanna, ben trovata. Ben trovata a te e naturalmente buonasera a tutti i radioascoltatori dei colori dell'anima, che come sapete va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22. E allora, in questa serata molto piacevole del 11 maggio, siamo qui in radio naturalmente, appunto da Radio Alma 101.9, ma siamo in compagnia di due ospiti. Li vuoi presentare tu, Anna Maria? Sì, ci sono due belle ospiti abbiamo. Una l'abbiamo spesso e siamo sempre contenti di averla, si chiama Fiorella. Un'altra è una new entry che è venuta a trovarci a Bruxelles e si chiama Noemi. E vi dico qualcosa di più tardi. Va bene, vogliamo sentire le loro voci magari? O dopo? Solo buonasera. Sì, sentiamole. Buonasera a tutti, grazie di avermi ritrovato. Buonasera a tutti, per me è un piacere essere qui per la prima volta. Allora, sì, poi spiegheremo, spiegheremo chi è Noemi, naturalmente, e intanto vogliamo così anticipare qual è l'argomento della nostra trasmissione. Allora, voi dovete sapere, cari radioascoltatori, che quando Anna Maria ed io siamo a corto di idee, cosa facciamo? Invitiamo degli ospiti. Invitiamo degli ospiti, ma c'è un ospite in particolare che invitiamo proprio nei casi di emergenza. E chi è quest'ospite? È Fiorella. Grazie, chiamatemi Croce Rossa. Croce Rossina ti chiamiamo. Comunque no, vi ringrazio, voi sapete che io vengo sempre molto volentieri, come ho detto tante volte, mi piace cioccolare con voi. E posso fare un saluto perché abbiamo ascoltatrici nuove, ciao Angela e ciao Patrizia anche. Patrizia, benvenute Angela e Patrizia allora. Sì, le salutiamo in diretta, spero che si siano ricordate, certo. Comunque io il saluto io l'ho fatto e ne abbiamo due in più. Va bene. Allora, tra l'altro Fiorella, prima magari di cominciare con la trasmissione, tu ci hai invitato sabato ad una manifestazione che avete organizzato e purtroppo non siamo potuti venire, ma insomma volevamo sapere che cos'era questa manifestazione, se la ripeterete, se ci puoi dire qualcosa a proposito. Allora, la manifestazione era Ballando Ballando sulle note della primavera e come voi sapete è stata organizzata dalla VAI, Volontari Assistenze Italiane. Dunque è stata la seconda edizione, una serata per ballare, per essere in famiglia, vi è stata all'orchestra una band dal vivo, I Diamanti, e un disc jockey. Innanzitutto devo ringraziare appunto sia la band che i disc jockey, per la seconda volta ci hanno offerto questa serata. E quello che ti dicevo prima, quindi stiamo arrivando, è stata molto più bella dell'anno scorso, bella quest'anno, ma quest'anno c'è stata una coralità in più. Dunque eravamo noi, quelle della VAI, le persone della VAI, le volontarie a organizzare la serata, però a un certo punto si è visto come se la VAI fosse composta da organizzatori, volontari e tutti gli spettatori. Dunque si è sentito questa coralità, questa voglia di partecipare. Ho parlato dei progetti che noi mandiamo avanti come VAI e alla fine molte persone hanno detto: ma possiamo fare questo, ti posso portare questo. Ma proprio durante la serata c'è stata questa, come se fosse una festa in famiglia, come tu inviti cugini, zii e tutto quanto, e poi chi spari, fra virgolette, chi fa quello, chi fa una cosa. È stata molto molto bella, staccante alle due. E questa quindi è una manifestazione che è la seconda volta che la organizzate, se non ricordo male, a Sala Aurore, e l'anno scorso mi pare stata a marzo, quest'anno a maggio, e speriamo di farne per una terza volta. E come ho sempre detto, siamo pronte ad ogni, come dire, ad ogni altro consiglio, e se qualcuno vuole, ha qualche idea per organizzare, perché noi, il bello è di stare tutti quanti insieme, bisogna sempre bisogna dimenticare che tutte queste manifestazioni la Valle organizza per raccogliere fondi. Certo. E a parte qualche spesa, affitto sala, devo dire che è quasi tutto gratuito, anche la pizzeria che ci fa il catering ogni volta ci fa sempre un fortissimo sconto. Dunque, a parte quelle spese necessarie, poi viene dato tutto. Va bene. Va bene. Allora, quindi questa era così solo per introdurre, diciamo, alcune delle attività, e in particolare questa, perché è l'ultima iniziativa che tu, come VAI, Volontari Assistenza Italiani, avete organizzato l'altra sera. Sì, posso aggiungere un qualche cosa? Prego. Il mese di febbraio abbiamo organizzato il secondo incontro di Incontriamoci, c'erano le persone anziane, soprattutto non ho parlato. È stata una bellissima esperienza. L'anno scorso abbiamo fatto in piccolo, quest'anno abbiamo chiesto ai patronati, perché sono molto sul territorio, e hanno portato ognuno 10 persone. Dunque la VAI ha pagato una certa somma, dunque gli altri con un minimo hanno pagato 10 euro le persone anziane, e li abbiamo portati al pranzo un venerdì allo chalet Robinson dell'isola al Bois de la Combe. Dunque è stata una cosa bellissima vedere tutte queste persone anziane che a volte non escono, non hanno compagnia, e sono venute tutti vestiti bene, e poi tu dici, ma forse con tutti, poi con queste macchinette pronti a farsi self, a mandarli in cui, dunque, ed è stato, e allora dice, ma no, ritorniamo un'altra volta, e devo dire anche che anche il personale dello chalet Robinson è stato di una gentilezza e di un calore mai visto. Poi sai, prendere il bac per fare quei 5 minuti di traversata, sembrava quasi che certo, tutti quanti dimenticassimo i nostri problemi. Hanno fatto un'escursione. Hanno fatto un'escursione. E noi abbiamo in idea di portarli al mare, di fargli fare un... così, prendere un pullman. Oddio, scegliete bene la giornata per andare al mare. Vabbè, ma sempre sai, il fatto è di... No, perché sai, l'unica cosa che viene proposta è il pallinaggio a Banù, dunque, per fare un po' di contropeso, cioè sacro profano. E dunque, mi sembra giusto, una bella giornata al mare, ecco, è un'ottima idea. Ma vorremmo anche fare un picnic sul prato, sui pratoni, perché no? L'importante è farli uscire, ecco. Certo. Per esempio, sabato sera sono venute alcune persone anziane che erano a questo pranzo, e una cosa tipica dell'anziano, l'anziano italiano, perché così anticipiamo, e si sono fatti il giro di ricognizione qualche giorno prima per vedere dove arrivare, quale mezzo. Ah, addirittura! Questo è l'italiano furbo, voilà, ti ho dato il là. No, vabbè, allora Fiorella, dimmi. Quindi ci vuoi dire qual è l'argomento di questa sera? Poi magari mandiamo un brano musicale e quindi poi torneremo ad approfondirlo. Allora, l'italianità, però vista anche attraverso, noi siamo... qui presenti siamo persone anche che viviamo all'estero, abbiamo girato, come noi vediamo gli italiani, come li riconosciamo e come veniamo riconosciuti, cioè più che altro aneddoti, perché è questa anche la cosa, se riusciamo a spiegare come noi riusciamo a beccare l'italiano per strada, come ne siamo riconosciuti. Dalle scarpe. E quello che ci caratterizza come italiani. Va bene, quindi diciamo titolo generale l'italianità, appunto l'italianità però vista nei termini di chi vive all'estero, vista quindi da noi stessi italiani e vista eventualmente, diciamo, dalle reazioni che abbiamo ricevuto dagli stranieri nei confronti di noi italiani. Ok, e facciamo concorrenza all'Expo Milano oggi. Ah sì? Va bene, d'accordo. Siamo tanti italiani. Certo, allora propongo ancora un brano musicale, ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando rimanete sintonizzati sulle onde di Radio Alma 101.9. Ed eccoci di nuovo in diretta con la nostra chiacchierata ai colori dell'anima in questa sera dell'11 maggio 2015. E con Anna Maria naturalmente, con Fiorella e poi anche con Noemi, parliamo di italianità. Allora, Fiorella, dimmi. Italianità. Iniziamo prima cosa per dire chi sono gli italiani. Beh, ci possiamo ricordare quello che è scritto all'Euro a Roma sul Palazzo della Civiltà, un popolo di poeti, scrittori, scultori, naviganti, scienziati, scopritori. Dunque siamo tante cose, no? Giusto? Uh-huh. Dunque questa forse è l'italianità, questa poliedricità. Sì. Prima avevamo detto un pochettino dell'Expo, eh? Dunque, sì. Expo bellissima. Hai detto che stiamo facendo concorrenza all'Expo. Ma sì, adesso possiamo dire anche quello. Ma ora non esageriamo. Vabbè. Oh, vabbè, certo anche che noi non è... siamo, che ti posso dire, una tendice. Nel nostro piccolo, piccolo, sì. piccolo microscopico, vuole sì, dire. Ve lo concedo. Ecco, e diciamo che anche lì c'è l'italianità, cioè l'italianità nella bellezza, nell'architettura, ma anche l'italianità nel casino, perché siamo arrivati all'ultimo momento, le cose non erano finite, chi si diceva no, non finiamo, sì, voi finite, questa, cioè questo è anche il nostro tipico italiano, giusto? Questo sì, sì. Noi improvvisiamo, cioè noi siamo non bravissimi, ecco, molto creativi. Cioè di notte facciamo i miracoli, forse Dio, non lo so, allora, d'essere origine italiana. Scusa se ti interrompo, se vi interrompo, ma italianità in questo caso la mettiamo, diciamo, in contrapposizione a francesità, germanità, sì. che ne so, sì. perché magari in confronto, vabbè, io non sono molto esperta, ma magari rispetto ad un paese, che ne so, africano o asiatico, magari siamo fin troppo organizzati, per dire, quindi probabilmente dipende anche... Noi organizzati? Stiamo parlando di Italia, non sì, ho adesso. Capito. No, noi siamo abbastanza organizzati. Ma noi siamo a modo nostro. Noi siamo organizzati nel nostro disordine, cioè io mi ricordo che alcuni anni fa una persona mi disse: "Io ammiro gli italiani perché in questa grande confusione, però voi riuscite a tirare fuori, cioè noi se non abbiamo le cose ben quadrate". Infatti. E ti rispondo come l'altra sera, non so chi ha visto il canale su Rai 3, c'era la Unzige Svizzera che dice come lei è molto, come dire, presente in Germania, lei dice: quando io vado in Germania mi rendo conto che lì è tutto bello, perfetto, però io ho bisogno della mia parte di italianità per avere un po' di fantasia. Poi quando io ritorno in Italia divento svizzera perché ho bisogno di, come dire, di compattare, di quadrare le cose. Ed è questo che quello che dicevo prima, cioè noi che viviamo all'estero o perché abbiamo fatto un trascorso in qualche paese straniero o perché sposati, siamo molto italiani dentro, però abbiamo assimilato anche forse quella maniera nordica, che fa sì che la nostra italianità cammini forse un po' meglio. Diciamo, siamo meno confusione degli altri, siamo più... Beh, forse abbiamo una visione un pochino più globale, diciamo così, sì. perché abbiamo l'opportunità di conoscere altre persone e altre culture e quindi magari facciamo nostre anche qualche altro modo di fare. Però rimaniamo sempre degli italiani, cioè... Ecco, e allora l'italianità, diciamo prima, in che cosa si riconosce? Cioè, com'è, per esempio, la prima cosa, com'è che tu riconosci un italiano per strada? Tu abbia visto Brignano come me, giusto? L'altra sì, settimana. Cioè, noi non ci vestiamo a colla. Cioè, i tedeschi si vestono a colla, come diceva lei. Perché si mettono la colla, entro nell'armadio, quello che rimane appiccicato, così. Questa non l'avevo mai sentita. Non l'hai sentito, l'ha detto quella sera. A colla, no, ma è bellissima. No, figuriamoci, se il calzino non è abbinato alla certo. camicia, non ma anche l'intimo deve essere abbinato, anche quello, l'intimo. Lo sai che quando io vado in Italia e mia figlia mi guarda ogni tanto e mi dice: "Mamma, sei diventata un poco belga". Sì, a me me lo non lo prendo mamma. Proprio come un complimento, perché lei vuol dire: "Hai cambiato un po' stile". Sì. Ormai mi confondo nella folla. No, diciamo che no, adesso non tanto, ma voi vi ricordate tantissimi anni fa che le persone, almeno nel mio quartiere, c'erano le signore a Ucla che scendevano con i bigonini in testa, si mettevano il fulare e andavano in giro a portare il cane. L'avete mai visti sulla Churchill? 30 anni fa così succedeva. Cioè tu dicevi: "Ma queste donne piccoline, così alte?". No, tu vai a vedere, avevano i bigodini sotto, mettevano sto fazzettolone e andavano a fare le cose loro ai cani. Dunque, ti ricordate tanti anni fa c'era di moda qui quegli impermeabili leopardati di finta plastica? Non no, non... io non ero qui. Finta plastica? Ti sei perso. Di finta plastica, perché la vera plastica sì. è tutta un'altra no, no, cosa. Perché era abbastanza un nylon, una cosa. E io anche a me, quando tornavo dal Belgio i primi tempi, mia mamma faceva: "Dice, ma qui c'è qualcosa che non va", perché io non rientravo nel loro stile, in quello che noi, nella nostra, come dire, mia mamma ancora adesso, io vedo la signora Noemi accanto che è ben vestita e tutto quanto. La mia mamma, per esempio, non scende neanche in garage se non si è truccata. Non si so, come diceva Brigna, non si può mai sapere chi si incontra. Si incontra, assolutamente. E anche questo è l'italianità, perché noi siamo... Cioè, l'italiano, penso, che non è solitario. Ha bisogno no, di tante persone. Siamo estremamente sociali. Ecco, però, come siamo estremamente sociali, abbiamo paura del... No, abbiamo, come dire, timore, non paura, timore, soggezione dell'opinione altrui. Cioè, e ma abbiamo la gente paura che... di passare inosservati. No, abbiamo paura che qualcuno dice, ma guarda come siete vestita per strada, cioè c'è anche questo. Cioè, diciamo, abbiamo questo senso della dignità, del, e dunque forse è per questo che ci teniamo. Come diceva Brignà, casa è sempre bella pulita, non viene nessuno, però sempre qualcuno che può venire all'improvviso. Non sia mai. Non sia mai, dice, non sia mai viene qualcuno. Ecco, appunto, e noi siamo, in questo è l'italiano, giusto? Dunque, sì, esteticamente è questo. E io devo dire che l'italiano lo riconosci, anche se poi è vestita la belga, la tedesca, tu, all'ora di pranzo, all'ora di cena. Io quando vivevo a Vienna, mi ricordo che andavo in giro nel centro verso l'Hofburg e tu vedevi, perché lì venivano i pullman delle comitive, tu verso mezzogiorno e tornare a mezzo vedevi sempre, c'era qualcuno che proprio si impuntava come gli asini, guardava allora l'ora, e tu scuola l'italiano, perché loro facevano, mezzogiorno e mezzo dov'è che si mangia? Cioè, ma lì si riconoscono assolutamente, giusto? Si pranza e si cena. Dov'è che si mangia? Ecco. Dunque, ci riconosciamo e ci facciamo riconoscere. No. Sì, ci riconosciamo, come dicevamo prima a Fiudo, Fiorella, soprattutto fra di noi. Sì. Perché sì, magari, che ne so, diciamo, per riprendo l'austriaco con la minuscola, magari per un austriaco noi siamo come gli spagnoli o forse anche come i francesi. Però noi riusciamo a vedere anche quelle sottigliezze, come dicevi tu, Anna Maria, nelle scarpe, nel modo di vestire, ma più che nei vestiti, appunto nella associazione dei colori, nella combinazione dei vari colori che devono andare sempre bene insieme, effettivamente. Mai più di tre? Mai più di tre, questo non lo sapevo, vedi? Grazie, imparo qualcosa stasera. Sì, non lo sapevo questo. Mm-hmm. Vedi, stiamo perdendo un po' la nostra eternità? È una regola non scritta. Sì, non più di tre. Così dicono. Il bon ton. No, non è questione di bon ton, è di buon gusto, è diverso. Proprio. Ok. Allora, invece volevo chiedere a Noemi, che è un po' in retroguardia, tu anche sei vissuta all'estero, sei vissuta, sì, molti che anni. Io sappia, in Ruanda sicuramente, ma forse anche altrove. In Ruanda, Burundi, Congo, Isole Comorre, Gibuti. E anche un pochino in Belgio. E anche sono stato un anno qui a Bruxelles, ho un capito. Anno consecutivo. E per te, che diciamo sei stata all'estero, ma prevalentemente nei paesi africani, si può parlare di italianità o magari... Sì. Soprattutto con la popolazione locale. Uh-huh. Noi italiani siamo visti di buon occhio dagli africani. Uh-huh. E ci amano. Abbiamo un altro approccio nei loro confronti. Uh-huh. E loro questo lo sentono, lo apprezzano e siamo ben apprezzati e abbastanza amati. Uh-huh. Però diciamo fisicamente... Fisicamente anche, perché io che sono vissuta in Ruanda, dove è un'ex colonia belga, per cui la maggior parte degli espatriati erano dei belgi, ero sempre considerata una delle donne più eleganti di Kigali, ma non per questo spendevo grandi cifre, sì, certo. Quando mi vestivo, io venivo in Italia, venivo a Roma e compravo, però giustamente quello che diceva Fiorella, Fiorella, è questo gusto che abbiamo noi di vestirci, mm-hmm. è una cultura che abbiamo dentro. E mi ricordo una volta sono andata in Francia a trovare degli amici, non ero vestita bene, avevo fatto un viaggio in macchina, quindi abbastanza comoda, e lei mi ha guardato e mi ha detto: Noemi, tu sei la vera italiana. E ho chiesto perché subito. Dice: si vede da come sei vestita, pur non avendo chissà che cosa, ma quel tocco noi italiani ce l'abbiamo. Beh, riconosciamocelo questo, sì, no? Questo è un dono che abbiamo. Abbiamo tanti difetti. A qualsiasi età, tra l'altro. Ecco, abbiamo tanti difetti, ma questo è un pregio che abbiamo e che nessuno ce lo può togliere. E non siamo uno uguale all'altro. Non siamo, no, come dicevi tu. No. Per esempio, io frequento molto l'ambiente francese in Francia. Loro hanno lo stesso taglio di capelli, le signore, tutte con le mesh, tutta la stessa cosa. Da dietro non le riconosci. sono tutti uguali, molto più, perché loro si riconoscono, ecco, loro sono molto, come dire, golliste, no? Lo Stato, sono compattate. Noi, quattro persone, parliamo quattro contemporaneamente, cinque tipi di caffè, perché dipende da come ci gira, e siamo anarchici forse, e questa però è la nostra fantasia, no? Posso dire solamente, parlando dell'apprezzamento che noi riceviamo all'estero, perché lo volevo sempre dire, un grazie alle persone che vanno ad aiutare in territori disastrati, e le equipe italiane sono sempre quelle più apprezzate, perché mettono il calore umano, mettono il cuore. Io ho l'esempio del primo battaglione, che andò in Bosnia Erzegovina durante la guerra. Arrivarono tardissimo, e verso le 11 di sera, e tutti i bambini andarono intorno, cioè gli italiani, gli italiani. E beh, questi erano militari, stanchissimi, hanno fatto migliaia di chilometri, stanchi morti, e la persona che comandava disse: montiamo la cucina e facciamo i spaghetti per tutti. Ah, alle 2 del mattino. Dunque, e abbiamo, siamo visti, sì, anche mai. Ecco, questo è anche un altro argomento. Noi passiamo per il cibo, sai, sempre. Tu, quando torna tua figlia, quando era piccola, che cosa gli dici a tua figlia? Come apri la porta quando viene a scuola? Cosa hai mangiato? Hai mangiato? E che cosa hai mangiato? Oppure che cosa vuoi mangiare? E io, quando vado a casa, sì, mi chiedono: che cosa vuoi mangiare quando arrivi? Mia mamma, ovviamente, mi telefona: cosa vuoi che ti preparo quando arrivi? Sì, perché per noi il pasto non è semplicemente nutrirsi, per noi è uno scambio, sì, è un modo di vivere la famiglia, di vivere le persone, di vivere gli affetti, sì, e preparare da mangiare è un gesto d'amore, sì, e quindi lo facciamo con piacere, non è solo per il mangiare, insomma, no, diciamo, no, che il cibo, un panino, è una scusa, qualche assolutamente cosa, cioè non... voilà, vuol dire dare qualche cosa, che nutriamo qualcuno noi, con affetto. Esatto. Allora, con queste dolci parole io proporrei una panino, piccola non un panino ma una piccola interruzione, così riprendete un po' fiato, e mando ancora un brano musicale, di nuovo una donna, perché ho pensato che, visto che siamo tutte donne stasera in studio. Ma come mai siamo sempre tutte donne? Ma che ne so io. Cos'è, dobbiamo, non dobbiamo conosciamo una, tanti uomini, Anna Maria, forse. Forse noi lasciamo abbastanza spazio. Infatti, siamo, ci dobbiamo riflettere. Comunque, vabbè, insomma, anche tante cantanti ad allietare questa serata, perché ci sono tante cantanti donne, e io spesso, quando ascolto la radio, sento sempre gli uomini, invece no, anche le donne, quindi un'altra donna, e ci ritroviamo fra pochi minuti sempre con I colori dell'anima. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Ed eccoci con I colori dell'anima in questa bella serata di maggio, con Anna Maria, con le mie ospiti che stanno chiacchierando. Sono un po' distratte queste signore, e adesso le devo richiamare all'ordine. Ecco. Fiorella, ti devo richiamare all'ordine. Ti fai distrarre tu, dai, diciamolo. Distraggo e mi faccio distrarre. Sì, ma anche questo fa parte dell'italianità. Noi dobbiamo chiacchierare, ci piace, sì, chiacchierare. Noi siamo gli unici che riusciamo a attaccare bottoni in autobus, in metropolitana, nel, sì, tram, tutti. Sì, io amo molto viaggiare da sola, no? Sì. Perché in questa maniera tu sei, vabbè, mi manca poco, cioè ci vuole poco per mi attacca a bottone, però cioè, anche in gruppo noi riusciamo a mettere dei gomiti. Per esempio, essendo nata e vissuta a Roma, adesso non lo so, ma penso che ci sia ancora questa abitudine. C'era sotto Piazza Venezia, c'erano gli appuntamenti, uno si dava appuntamento, sotto il balcone. però potevi anche arrivare e non trovare nessuno di quelli che conoscevi, però c'era sempre gente che aspettava, e allora che fai? Attacchiamo il bottone con quello, con quell'altro. Ma è il nostro modo di parlare, di... il nostro modo di fare e di essere, di interessarci degli altri, di sapere qualcosa. Io mi ricordo una delle prime volte che andai a Parigi da quello che poi sarebbe diventato mio marito, una cena con i suoi amici gentilissimi, lui fa guarda questo eccetera eccetera, poi sai, uno chiede, dice, ma quello com'è, sposato, eh? Sai, quello è il mio compagno di università da tantissimi anni, lo conoscono, dice, che è sposato? Ah, non lo so, non gliel'ho mai chiesto. Come non gliel'hai mai chiesto? Dunque, nonostante fossero amici da sempre. Sì, a quel punto ho capito che se volevo, perché a noi sì, ci piace parlare di politica, però ci piace anche farci i fatti degli altri, giusto? Assolutamente. Ecco, soprattutto spettacolare, quello e quell'altro. E niente, allora ho capito, dunque andavo io, poi mio marito ha capito e mi piaceva. Ma senti un po', ma quelle persone lì che t'hanno detto? Perché poi, siccome lui non chiedeva, lui non chiedeva a me, sì. Allora, dunque abbiamo questa... Però ho visto le persone che vengono in Italia, ecco, l'italianità noi ci vediamo così, no? Come siamo visti noi? Quando io sono andata in Birmania, mi ricordo che c'erano alcuni funzionari, venivano mandati a fare degli stage in Europa. C'erano quelli che, poveracci, capitavano male, andavano in Ungheria, in Polonia, queste cose qua. Chi invece capitava bene andava in Italia e non volevano tornare, perché dice, in Italia, a parte che dice andiamo bene perché c'erano gli spaghetti come da lui, vabbè, cinesi. E poi si sentivano bene, si sentivano accolti. Cioè, sai, noi poi abbiamo sempre questa cosa, lo straniero lo mettiamo sempre sul piedistallo. Vero, no? È vero. Ecco, siamo curiosi. Ecco, dunque lo incontri, sì, lo porti. Dunque questi si sentono coccolati, vezzeggiati. Sfido io che non vogliono tornare a casa, giusto? È giusto. Sì. Allora, non ci fa mai nessuno, ma parliamo del, sì, l'hai già accennato, ma insomma, del mangiare. Allora, posso dire una cosa, un esempio? Ieri sera, ieri Roma batte Berlino 1-0, perché mio figlio è venuto un compagno di un vecchio compagno di università in Germania, e un ragazzo tedesco, una stanga, dunque l'ho fatto nutrito e tutto quanto, ieri doveva partire e gli avevo fatto, un giorno prima dico, guarda, ti ho fatto un barattolino di pesto. Mio figlio mi guarda male, non si dicono queste cose ai tedeschi. Lui mi fa, ah, sì sì, grazie. Poi ieri io ho fatto la pasta asciutta, gli ho fatto, guarda, avanzate il sugo, la vuoi? Sì sì, grazie. Poi, un pacco di pasta? Sì sì, grazie. Dunque, sto ragazzo è venuto con un pacchetto così, mi ha detto prima di uscire, la prossima volta vengo con un trolley vuoto. Dunque, ha capito come sono le mamme italiane. Lui dice, quasi quasi ne approfitto, sì, giusto? Beh, veramente, a proposito di italianità, le mamme italiane secondo me sono veramente speciali. Infatti, quando vedo delle mamme molto affettuose, colleghe, che ne so, belga o irlandese, dico, ma tu sei come la mamma italiana, perché per me è veramente un po' invadente, sicuramente, no? Possiamo dirlo che la mamma italiana è un po' invadente. Impicciona. Invadente. Però ecco, è quella che proprio che... che ti dà di tutto di più. Assolutamente. E che... quella che c'è sempre anche quando non dovrebbe esserci, giusto? Esatto. Sì, perché adesso vi sveliamo un segreto. Ecco. Noemi è la mia mamma. Viva la mamma! Quindi ieri era la festa della mamma. Esatto, ieri era la festa della mamma. Quindi è venuta qui la mia mamma per passare appunto la sua festa con noi. Siamo tre fratelli, perciò. E siete tutti qua, quindi siamo tutti qua. Giustamente è venuta per farsi festeggiare. Ha detto, voi non venite, vengo io. E come avete festeggiato la festa della mamma ieri? Siamo state a pranzo da mia sorella, ovviamente, i pranzi familiari con di tutto e di più, come da copione. Sì, iniziano la mattina e finiscono la sera. I tuoi figli, Fiorella, come ti hanno festeggiato? Invece? Mangiando quello che ho preparato io, da buona No, loro, vabbè, hanno fatto gli auguri, non è che mi hanno fatto, mio marito mi ha comprato alcune piante, tanto per mettere sul terrazzo, ma i figli, diciamo che mi hanno festeggiato, come dire, capendo bene la mamma italiana, cosa ci fai oggi per pranzo? Con la domanda fatidica, cosa domanda prepari per pranzo? Ecco, ieri non sono riuscita a fare le polpette, però sai, queste cose qui, ci sono dei menù tipici, diciamo, ecco, e poi cioè, da una parte forse non gli va tanto questa mamma un po' invadente, però quando sto zitta iniziano a dire, ma cosa c'è? Qualcosa che non va. Comunque per me il massimo dell'italianità è che appunto poi ho riscontrato varie volte, soprattutto dagli stranieri nei confronti degli italiani, non è che cosa ti cucino oggi, è troppo generico. No, che tipo di pasta ti faccio? Ecco. Perché bisogna stabilire prima di tutto se uno vuole gli spaghetti, le penne, certo, che ne so, i fusilli o le farfalle, ma vuoi mettere se sono spaghetti o penne? Che è la stessa cosa? Se sono spaghetti numero 3 o spaghetti numero 5. O linguine. O vermicelli. Quindi, ragazzi, uno che non è italiano non farebbe mai questa domanda, che tipo di pasta vuoi? E quindi pasta corta, prima cosa, pasta corta o pasta già lunga? Già si discrimina tra i due gruppi. Ecco. E poi sì, e si va ancora più in dettaglio con le varie tipologie, poi rigata, non rigata, ecco, questo... Comunque, come diceva una mia amica, cucinare per gli stranieri era un'opera di bene, sempre. Soprattutto quando c'hai figli a scuola che ti dicono, mamma, io ho promesso a tutti i miei amici che tu fai le pizzette e il tiramisù. Ecco, e non te la scampi. Ma questo è il coso di tutte le mamme comunque all'estero, giusto signora? Sì, sì. Ecco. Vabbè. Allora, quindi abbiamo parlato del vestirsi, in particolare per le donne. Invece per gli uomini, ritorno un attimo all'abbigliamento, c'era un mio collega norvegese che mi diceva che lui, che quasi in un certo senso gli uomini italiani gli sembravano omosessuali, per come sono curati nel vestirsi, quindi c'è anche, diciamo, vabbè, probabilmente troppa cura, è un'esagerazione, sì. No, ma per dire come un nord europeo molto nordico, molto spartano, addirittura ha un parliamo po' parliamo di quelli che mettono i sandali col calzino, ovviamente, quelli della colla. Ecco, sì. Esattamente. E naturalmente i calzini corti rigorosamente, okay, di spugna, okay, anche. Okay. Con la gamba non abbronzata ma bianca, giusto? Io non la prenderei come critica, insomma. Cioè. No, ma non era una critica, era quasi un'osservazione carina, cioè, ma per dire appunto che uno ha l'idea che invece un uomo, un maschio, che non si possa curare, invece no, perché? No, assolutamente, no. Devono curarsi, anche molto. Pensa che quando mio marito si è sposato, cioè ci siamo sposati tardi e... a un certo punto dice, vabbè, ok, ho trovato una fidanzata, un suo collega carissimo italiano lo guarda, scommetto che è italiana. Lui fa, come lo vedi? Dalle camicie. ecco, vedi, altra tipicità italiana, che le mogli preparano tutti i vestiti ai mariti. No, quello no. Diciamo che gli ho rifatto prima il guardaroba. Ah, vabbè. Poi, cioè, sceglie lui? Sceglie lui, però sceglie fra le opzioni che lei gli offre, limitate naturalmente. Diciamo che ogni tanto quando fa, i primi tempi lui osava vestirsi da solo, cioè a me non importa niente, quando va in giro da solo nessuno lo sa che è sposato con me, no? Ma questa è la tua tecnica. Allora, va, quando esce con me, quando usciva con me, all'inizio lui si vestiva, io lo guardavo e ho fatto, ma che sei casato, tua testa, scusami, veramente, dico, ma ci vedi, ma come ti sei vestito? Adesso proprio neanche ci prova, fa, che mi metto? Dico, ma non ti sei vestito? No, ma poi non ti va bene, cioè ha capito che il problema è a monte, cioè proprio onde evitare igieni, proprio dove sei nato. Allora mi fa, dimmi tu quello che mi devo mettere. Vabbè, intanto c'ha ci prova. Ragione, certo. Eh? E c'ha ragione. Beh, sì, un po' che dopo tu lo critichi. Intanto gliela do, ecco, nei calzini forse. Vabbè, insomma, quindi... allora, io proporrei un altro brano musicale. Perché, Fiorella? Perché adesso bisogna riflettere sul colore. Non so se ci hai già pensato. Perché, insomma, ogni trasmissione ha il suo colore, quindi qual è il colore che possiamo associare all'italianità? E non mi dire verde, bianco e rosso, perché è troppo banale. No, ma poi mi dirai... tre. No. È il massimo. È il massimo concesso. Anche nella bandiera non ci smentiamo. Appunto, tre un po' di tre. Pensa agli americani che hanno messo tutte quelle Poveretti. Va bene, allora no. Quindi ritorniamo in studio fra pochissimi minuti per l'ultima parte della trasmissione di oggi dei Colori dell'Anima, dove appunto stiamo parlando di italianità e mi raccomando rimanete sintonizzati con noi e fino alle 22, naturalmente anche oltre se volete, ma sicuramente fino alle 22 con i Colori dell'Anima. A fra poco. Oh. oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Eccoci, stasera che parliamo di italianità, e italianità, gli vogliamo dare un colore? Queste signore cosa ci suggeriscono? Per me l'azzurro. L'azzurro. C'è anche la canzone Azzurro di Celentano. Azzurro, la squadra degli azzurri. Ma non è un po' déjà vu? Déjà vu? Non lo so. Noemi cosa dice? Che rifacciamo con l'indaco? Che colore darebbe agli italiani? No, dai, sarà banale, ma azzurro, sì. Eh? Azzurro va bene. Sì, non ci siamo sforzati tanto. Sforzate tanto, però va bene. Va bene, concediamo l'azzurro. Grazie. In tutte le varie sfumature. Ecco, cioè, va bene. Sì. Come, esattamente come siamo noi, come italiani, siamo con tante sfumature. Cioè, e con tanta fantasia, penso, no? Non so se tu hai fatto caso, se voi avete fatto caso, che l'italiano riesce a interessarsi di tutto, a parlare di tutto. Cioè, l'argomento, in mezz'ora che tu parli con un italiano, italiana, riesce a spazzare tutto, parla della sua famiglia, degli amici, del sì, calcio, sì, della politica, di quelle qua. Cioè, non è un inizio come molti stranieri iniziano e finiscono, no, noi ti diamo delle chicche di informazioni, sembriamo quasi isolati, una cosa del genere, e però se... E sviluppiamo, siamo, certo, sviluppiamo una conversazione. Ecco, per esempio, l'altra sera a questa festa c'è un signore che fa: avete visto? Perché lui vede quarto grado, no, quella trasmissione. Visto, è il prete che è molto in mente l'assassino. Dunque, sono sempre molto presi e, come dire, non... Almeno, forse noi che siamo fuori, non lo so se siamo ancora così, ma l'italiano che rimane ancora in Italia è molto interessato dei problemi del suo paese, di qualsiasi sia. Morale, di tutti, politico, di tutto, di sport, sì. Sì, soprattutto di sport. No, magari siamo talmente interessati da essere disinteressati, forse questo è un po' il rischio, a quello che succede nel paese nel quale viviamo, forse, perché comunque non si sì, può forse sapere. Forse ci disperdiamo un po'. Sì. Non, come diceva Fiorella, il fatto di voler dire tutto di tutto, di tutti gli argomenti, sì, però ci fa disperdere un pochino magari da concentrarsi su un problema serio, su una cosa un pochino più che meriterebbe di essere approfondita. Sì, forse sì, questo è un difetto, qualche difetto ce l'abbiamo anche noi, no? Sì, sì. Qualcuno. Ma... No, poi Fiorella, altri elementi di italianità, quindi abbigliamento, cibo, che altro? Ma... La musica forse no, perché secondo me al giorno l'arte d'oggi tutti ascoltano l'arte, ma l'arte come patrimonio del passato. Non ma so. L'arte l'abbiamo sì, dentro. Tu dici la musica, ma noi per esempio no, noi cantiamo, cioè non ascoltiamo. Cioè noi siamo come dire, tu dicevi la musica, no? Io vedo solamente, facciamo l'esempio, sono le scolaresche italiane che partono e che cantano a squarciagola, no? Giusto, anche tu ti ricordi molte volte le canzoni e tutto quanto. Cioè è una cosa, no? La musica fa parte di noi. Sì. Giusto? Sì. È un'arte e la viviamo, io mi ricordo, cioè anche in tutti i giorni noi tiriamo fuori dei brani di canzone, giusto? Sì, o sì. No? Sì, sì, assolutamente, cantichiamo. Ecco, diciamo che, come dire, la nostra cultura, che può essere, noi siamo, la nostra cultura non è una cultura da vedere, è una cultura che abbiamo assimilato e la ritiriamo fuori. Per esempio, con la cucina, vabbè, vediamo e tutto quanto, anche questa è cultura, no? La musica, la sentiamo, il vestire, l'estetica, siamo portatori della nostra italianità in tutto quello che facciamo, no? Sì, sì, assolutamente. Te lo devo, anche nella nostra confusione. Soprattutto nella nostra confusione. E poi, quindi l'arte, cos'altro ci caratterizza? L'amicizia. Il contatto con le persone, questo è tipicamente italiano. Sì, penso che non ci siano altri popoli che così sociali come noi. No. Così aperti, sociali, Non ho in mente un altro popolo che ha lo stesso atteggiamento che abbiamo noi, magari sì, rimane però, soltanto un atteggiamento. Adesso Anna Maria e Noemi, che siete vissute in Ruanda, in paesi africani, secondo voi i popoli di questi paesi non sono socievoli, non stanno molto insieme agli altri, non vivono in strada insieme agli altri. Indubbiamente tutte le popolazioni che vivono dove c'è il sole, sì, dove c'è caldo, dove c'è un altro tipo di clima, quindi che ti porta a vivere all'esterno, sì, delle abitazioni, sì, c'è una socializzazione diversa, sì, cosa che succede meno al nord, ma per questioni climatiche indubbiamente. Mm-hmm, sì. Poi chiaramente noi siamo un popolo che ha millenni di cultura e quindi questo si vede, si riscontra anche nelle relazioni sociali. Quelli che sono i popoli che hanno un bagaglio culturale diverso, c'è sempre la socialità, ma forse è limitata alla vita di tutti i giorni. E poi lo shopping, tipicamente italiano. Assolutamente. Questo è italiano, non c'è. Quando negli Stati Uniti ci riconoscevano, mi diceva il mio professore, si riconoscono gli italiani che vanno in giro per i sacchi di roba che riescono a comprare. Cioè siamo quelli che paghiamo di più. È vero, il bagaglio, extra bagaglio di aereo, che partiamo in aereo possiamo portare di tutto. Di tutto, sì, giusto? Sì. Confermo. Appunto. Dunque, lo shopping è nostro, giusto? Siamo quelli che fanno girare di più l'economia, indubbiamente. Sì. E poi l'italiano, forse per eccellenza, è lo spirito d'adattamento che abbiamo. Ci sappiamo, sì, adattare in tutte le situazioni. Molto. Ci diamo uno spirito di forza di solidarietà, cioè ci diamo una mano. Allora, una cosa tipica italiana. Esiste per esempio forse lo sportello al comune, noi cerchiamo sempre chi è che mi può aiutare e chi è che mi può dare. Qualcuno. Chi conosco, cioè noi siamo un tipico popolo che mette in funzione tutta una serie di legami, di catena, no? Cioè io chiamo te, mi serve qualche cosa, per esempio, a noi per esempio lo psicologo non serve, basta alzare il telefono, tutta una rete di amicizie, cioè noi sappiamo mettere in moto la catena umana, in poche parole, per qualsiasi cosa che ci serve, anche un bisogno, una necessità morale, chiamo, sì, un'amica, sì, si chiacchiera e tutto quanto, oppure mi serve un qualche cosa, chiami l'amica, ma tu hai fatto questo, tu come non hai fatto, alla fine si arriva. E si arriva anche alla fine della trasmissione, ahimè. Sono le 21:55 e dobbiamo lasciarvi. Naturalmente i colori dell'anima torneranno lunedì, torneranno con Cristina e Barbara. Noi torneremo invece a giugno. Comunque come sapete, chi ci segue, ogni lunedì c'è qualcuno di noi e quindi vi invitiamo a rimanere con Radio Alma e con i colori dell'anima ogni lunedì dalle 21 alle 22. E io comincio con il ringraziare Noemi, grazie Noemi. Grazie a te. Grazie di essere venuta, mi fa piacere che di questa radio di cui sentivi parlare da Anna Maria adesso l'hai vista anche concretamente. Sì, sì, sì, concretamente. Grazie a Fiorella, grazie a voi, la nostra ancora di salvezza. Grazie. E allora a presto qui a Radio Alma. E grazie. Grazie ad Anna Maria. E grazie a te Rosanna, come sempre. Grazie e ci risentiamo quindi prossimamente a giugno, ma appunto di nuovo ancora lunedì prossimo con i colori dell'anima. Buona serata a tutti, buonanotte e a presto. Ciao ciao.